几对清浊辅音的发音 ballo ballo barca barca bene bene birra birra buco buco cibo cibo edificio edificio bacio bacio lancia lancia casa casa corsa corsa cuore cuore chilo chilo barchetta barchetta perché perché data data dito dito dove dove duro duro faro faro fede fede folla folla fine fine fumo fumo gelo gelo gilet gilet gente gente agile agile già già giovane giovane giugno giugno gola gola gallo gallo gufo gufo ghirlanda ghirlanda righe righe lago lago legno legno lupo lupo lira lira lode lode amore amore mano mano metà metà mina mina mucchio mucchio cina cina nilo nilo nero nero nodo noto nulla nulla pane pane ape ape pino pino pollo pollo puro puro rame rame regno regno ricco ricco rosa rosa rupe rupe sale sale secco secco sino sino solo solo sudore sudore rosa rosa esempio esempio asino asino esodo esodo esule esule tavola tavola tegola tegola titolo titolo tetto tetto tufo tufo vano vano vero vero vivo vivo voce voce vulcano Vulcano. Zappa. Zappa. Zeppo. Zeppo. Anzi. Anzi. Zucca. Zucca. Zaino. Zaino. Zolfo. Zolfo. Zitto. Zitto. Azzurro. Azzurro. Tono. Tono. Dono. Dono. Pollo. Bollo. Bollo. Bollo. Callo. Callo. Gallo. Gallo. Foto. Foto. Voto. Voto. Prato. Prato. Applauso. Applauso. Trono. Trono. Strano. Strano. 练习. 30 giorni a novembre, con april, giugno e settembre. Di 28 ce n'è uno, tutti gli altri ne han 31. La donna immobile. La donna immobile, qual più malvento, muta d'accento e di pensiero. 谚语. Proverbi. La bugia corre su per il naso di chi la dice. Non c'è rosa senza spina.